E si chiude così la prima pagina del magazine di Nessun Luogo è Lontano, tutta dedicata al Giappone. Adesso andiamo a vedere lo stato del traffico sulle strade in Italia, poi di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Nessun Luogo è Lontano. Ben ritrovati, un buon sabato, un buon weekend da Giampaolo Musumeci. Quello che state sentendo è il meglio della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Una delle storie che più ci ha colpito di quelle che vi abbiamo raccontato è la storia di una foto, di uno scatto fotografico, la storia di un ragazzo, Michael Siamon, e la storia di un presidente e di un paese, le Filippine, dove un pugno di ferro sta facendo pagare cara la moneta sia ai trafficanti ma anche di droga, sia a larghe fasce della popolazione più debole. Partiamo proprio da quello scatto fotografico e da quella storia. È la sera del 23 luglio 2016. A Santo Niño, Pasay City, periferia est di Manila, il buio è già calato da qualche ora. Michael Siamon pedala sul suo rickshaw attraverso le strade in cui è nato e cresciuto. Qui i quartieri popolari, detti barangay, sono un dedalo di viuzze, baracche senza nome. Gli abitanti e le autorità li indicano solo con un numero. Michael si ferma alla bottega di fruttivendolo del padre. Scambiano due parole sul lavoro. Michael chiede al padre una mela da sgranocchiare mentre andrà alla ricerca di un ultimo cliente da scarrozzare in giro prima di tornare a casa dalla compagna, Jenny Lynn. Michael pedala veloce, nonostante i problemi respiratori che lo affaticano da quando ha contratto una leptospirosi. Uno o più motociclette si affiancano al suo rickshaw. Qualcuno esplode diversi colpi di pistola. Michael cade a terra, morto sul colpo. Prima di fuggire, uno degli assassini scrive velocemente quattro parole su un cartone appena raccolto da terra. I'm a pusher, io sono uno spacciatore. Quando la compagna Jenny Lynn arriva sul posto, pochi minuti dopo, troverà il cartone a fianco al cadavere. La foto di Jenny Lynn, che culla il corpo di Michael con il cartone di accusa al suo fianco, viene condivisa freneticamente su tutti i social con l'hashtag Cardboard Justice, giustizia di cartone. Diventa il simbolo della nuova era del presidente Rodrigo Duterte, il simbolo della sua guerra alla droga, di un'epoca nella quale chiunque, anche un conduttore di rickshaw come Michael, che aveva assunto shabu saltuariamente ma non lo aveva mai venduto, può venire crivellato di colpi dagli uomini senza volto degli squadroni della morte. E prima di spiegare meglio e analizzare perché Michael Siamon è morto ed è l'ultimo di una lunga, lunghissima lista nelle Filippine, è bene ricordare un paio di coordinate geografiche e storiche, appunto, che riguardano questo paese. L'arcipelago delle Filippine comprende più di 7.000 isole, ma la maggior parte dei suoi 96,5 milioni di abitanti si concentra su appena 11 di esse. Sono isole montagnose, spesso colpite da terremoti e tifoni e con 20 vulcani attivi. Ex colonie spagnole per più di tre secoli, poi sottoposte all'influenza statunitense fino alla totale indipendenza del 1946, sono ancora legate e assai vicine agli Stati Uniti. Il legame con Washington è assai forte in termini militari oltre che linguistici. L'inglese è infatti la lingua ufficiale oltre al filippino. Il fronte principale che Manila deve gestire da anni, anche con l'appoggio americano, riguarda il sud e i suoi movimenti di indipendenza di matrice islamista e comunista. La maggior parte dei filippini è cristiana e l'aspettativa di vita è di 66 anni per gli uomini e 73 anni per le donne. Questo il profilo del paese, del teatro nel quale si è svolta la storia di Michael Siamon, ed è una storia che ha a che fare con un mercato della droga in espansione, sulla lotta al traffico della droga ma anche al consumo, quindi anche ai tossicodipendenti. Il neoeletto presidente Duterte ha costruito la sua carriera. Allora mettiamo un po' di punti fermi proprio sulla figura del presidente e sul fenomeno del narcotraffico. The Punisher, il castigatore, questo l'appellativo che si è guadagnato Rodrigo Duterte, il nuovo presidente filippino sempre più noto nel mondo per le sue politiche di tolleranza zero contro il mondo della droga. Già durante il suo precedente mandato di sindaco nella città di Davao, il politico di Imazin era conosciuto nelle Filippine per la sua intransigenza. Ma quando a maggio ha vinto le elezioni nazionali con un'ampia maggioranza, la sua durezza ha toccato l'apice. Nella guerra al cartello ai produttori di metanfetamine, secondo il governo, sono già state uccise 420 persone, di cui 154 per mano di soggetti non appartenenti alle forze di polizia. In realtà i dati sono ancora più inquietanti. Diverse associazioni umanitarie denunciano che i morti sono più di 700. Le vittime sarebbero soprattutto gli spacciatori, i tossicodipendenti più poveri, quelli che non possono difendersi dalle retate della polizia e dei criminali. Oltre alle forze dell'ordine, diversi squadroni della morte continuano a commettere esecuzioni sommarie senza rispettare la legge. Ma sebbene i morti continuino ad aumentare, finora sono mancate reazioni forti del governo per fermare queste forme di violenza extralegale. I risultati della crociata antidroga di Duterte sono impressionanti. Secondo la polizia, da quando il premier ha minacciato di morte i tossicodipendenti e gli spacciatori, si sono consegnate alle forze dell'ordine 114.833 persone. Inoltre, sono stati condannati anche 5 generali della polizia accusati di coprire i signori della droga. Sempre da fonti governative emerge che gli arresti registrati in 3 mesi sono oltre 2.700 e che i crimini sono diminuiti. Le vittime della guerra antidroga sono destinate a crescere. Duterte si è detto intenzionato a tener fede alla promessa fatta al suo insediamento: uccidere 100.000 criminali nei primi 6 mesi di mandato. Ed è in questo tratteggio e anche in questo lessico da Far West che il neopresidente eletto si sta muovendo, e si sta muovendo come un elefante in una cristalleria, come avete ben capito. Non è particolarmente diplomatico nemmeno con i media. Alcuni giorni fa, il Guardian riportava di una sua dichiarazione che diceva: i giornalisti corrotti, quelli andrebbero uccisi. E quindi una figura particolarmente controversa che, da un certo punto di vista, sicuramente alcuni risultati li ha portati, perché ha iniziato a ripulire alcune delle strade delle Filippine. Dall'altra parte c'è chi sussurra che alimenti, come dire, avalli questi squadroni della morte e quindi delle esecuzioni extragiudiziali e una giustizia parallela che starebbe dando una mano al governo in questa lotta al narcotraffico. Abbiamo allora deciso di raggiungere Wilnor Papa, che è coordinatore di Amnesty International, e l'abbiamo sollecitato proprio su questo tema. Questo Duterte è uno che ha detto pubblicamente: se incontrate uno spacciatore, un tossicodipendente e avete una pistola, potete fare giustizia da voi. Quindi, come ben capite, dichiarazioni di questo tipo hanno fatto rizzare le antenne a tante associazioni e organizzazioni internazionali, tra cui appunto Amnesty International. Well, to be honest, of course, ad essere sinceri, in realtà le politiche di Duterte non sono dirette a colpire uno specifico gruppo di persone. Il problema è che i bersagli più facili da attaccare sono quelli che non hanno mezzi per difendersi, quindi la parte più povera della popolazione. Sono queste le persone che non hanno risorse per proteggersi dai mandati di cattura, dagli attacchi da individui non identificati, più numerosi di quelli condotti dalle forze di polizia locali. E come immaginate, raccontare il narcotraffico è estremamente difficile anche per i giornalisti filippini, che sono spesso minacciati, se non uccisi. Non è certamente un paese facile, e come spesso abbiamo raccontato nelle varie edizioni Nessun Luogo è Lontano, le collusioni dei narcotrafficanti ai vari livelli della società politica e civile sono davvero tante, per cui è difficile anche a volte interpretare gli arresti che vengono effettuati e giudicare così la politica appunto dei vari governi. Una cosa è certa: sul terreno ci sono tantissimi morti. Michael Siamon è soltanto uno degli ultimi, quello più noto al momento, con questo funerale iconografico di cui il New York Times appunto ha riempito la prima pagina ieri. Siamo con Wilner Papa, che è coordinatore di Amnesty International nelle Filippine. Abbiamo aperto con lui un capitolo fondamentale, questi cosiddetti squadroni della morte, che col beneplacito, quantomeno con l'inazione o il silenzio del presidente Duterte, agiscono come una vera e propria polizia parallela. Sentite che cosa dice Wilner Papa riguardo a questo fenomeno. Sono stati registrati diversi casi di violenza ad opera di cosiddetti squadroni della morte. Tuttavia, non sono mai state condotte indagini statali su chi li componga e le modalità di azioni di questi gruppi. Questo problema è quello maggiore. Ci sono storie, ci sono casi, ma non ha indagini affidabili. Il governo non sta agendo in modo abbastanza serio di fronte alle uccisioni sommarie commesse da questi squadroni della morte, anche se nelle Filippine negli ultimi 20-30 anni questo fenomeno si è ripetuto più volte. Il governo non ha mai indagato sul tema. E questo, siccome perché un giornalista dovrebbe innanzitutto dubitare, potrebbe, come dire, far nascere qualche sospetto, la domanda è: perché non ci sono indagini del governo a riguardo? Da una parte, perché sembra che l'azione di questi squadroni faccia comodo al governo, dato che lo aiuta nella sua guerra contro la droga. Dall'altra, le forze di polizia filippine non hanno né gli strumenti adatti né l'esperienza giusta per svolgere questo tipo di indagini. Quindi questa soluzione rimane la più vantaggiosa per il governo. E apriamo il capitolo politico. Eravamo quasi riusciti a avere un'intervista con una senatrice, ma poi è misteriosamente evaporata, un tiro a rimpiattino che è durato alcune ore proprio questa mattina, ma vi prometto io e la mia redazione che se riusciamo a raggiungerla vi proporremo un suo commento, perché è una delle poche voci che all'interno del congresso filippino si levavano contro questo pugno di ferro di Duterte, che sta colpendo indiscriminatamente le fasce più deboli. Con Wilner Papa, che è il responsabile di Amnesty International per le Filippine, abbiamo aperto appunto questo capitolo, che è quello delle reazioni politiche. Sentite che cosa dice a riguardo Papa. Apprezziamo questa presa di posizione e la volontà espressa dal Senato al Congresso di avviare delle indagini sulle uccisioni extragiudiziali che accadono ormai ogni giorno. Anche il presidente Duterte ha dichiarato che non avalla questo fenomeno. Tuttavia, per ora la situazione non è ancora arrivata a sollevare veramente le istituzioni, anche se molte associazioni stanno lavorando sul tema. Finché Duterte, che gode del sostegno della maggior parte della popolazione, continua a tenere gli occhi chiusi, allora gli omicidi quotidiani continueranno ad essere un problema per il paese. E grazie anche al commento e all'analisi di Wilson Papa, coordinatore di Amnesty International nelle Filippine. Stiamo meglio comprendendo la politica del presidente Duterte. Adesso facciamo una piccola pausa e poi di nuovo in studio con Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati in questo programma. Abbiamo una responsabilità nel racconto di quello che accade. Questo stesso programma nasce 6 anni fa con un titolo che era ed è una missione: Nessun luogo è lontano, le distanze che si accorciano, gli eventi, anche i più lontani, che hanno sempre comunque ricadute e collegamenti con noi. Guai a pensare che Kabul, Lima, Bangkok, Bamako, Kinshasa siano lontane. Il nostro quotidiano è oramai il mondo che va sempre più raccontato. E veniamo al lessico di quel racconto. Le parole pesano, certi titoli non fotografano la realtà, certi racconti offrono vedute parziali e deformanti e violentano la realtà, alimentano stereotipi e falsità. Maestri del commento, spesso senza solide basi, fanno a gara a dire la loro. Torniamo ai fatti, pesiamo le parole, è un momento in cui chi racconta ha grandi responsabilità. Noi faremo del nostro meglio per restituirvi i fatti, per scegliere con cura inviati e commentatori, per diradare quella nebbia in cui le recenti cronache sono state avvolte, una nebbia fatta di ideologie, strumentalizzazioni, tesi provocatorie e intolleranze, che a noi non piacciono. A noi piacciono i fatti, ma siccome anche un evento non accaduto è un fatto, partiamo proprio da qui, da eventi non accaduti, dagli attacchi terroristici sventati. cosa sarebbe accaduto se? Ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano. Ben ritrovati, i saluti vi arrivano anche da Gianmarco Ferronato in regia, che darà musica e ritmo anche a questa puntata. In redazione squadra tutta nuova, Antonio Talia, Eleonora Aragona e Silvia Mannati a scrivere e confezionare con me questo programma che vi terrà compagnia per tutto il mese di agosto. Allora, dicevamo, a noi piacciono le parole, e chiaramente facciamo la radio, ci piacciono i fatti, ma ci piacciono anche i numeri. Iniziamo dunque, diamo i numeri. I numeri sono quelli del recente rapporto redatto da Europol sulla minaccia del terrorismo in Europa. Lo Stato Islamico ha ispirato o condotto 50 attentati in 18 paesi del mondo tra giugno 2014 e dicembre 2015. In questi attacchi sono morte 1.100 persone e ne sono state ferite più di 1.700. La maggior parte degli attentati ha colpito i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. L'annuale rapporto Europol sulla situazione del terrorismo mostra che nel 2015 gli attacchi jihadisti in Unione Europea sono stati 17 e hanno prodotto 150 morti e 250 feriti. Il paese che contiene il maggior numero di vittime è la Francia, con 148 perdite. Risultano quasi raddoppiati gli arresti per reati legati all'estremismo islamico, passati da 395 nel 2014 a 687 nel 2015. Ed è anche esponenzialmente cresciuto il numero di donne imprigionate con l'accusa di essere legate al terrorismo jihadista. Il rapporto Europol, inoltre, segnala che in Unione Europea, per la prima volta dal 2008, gli attentati di matrice jihadista hanno superato quelli di natura separatista. Questo è l'elenco dei numeri e delle cifre fornito da Europol, l'organo di polizia europea, appunto, in un recente rapporto. Tra le pieghe di questi numeri però ci sono anche intense attività di indagini ed episodi di cronaca come questi. Quello di Düsseldorf, ad esempio, che risale al 2 giugno del 2016, la polizia tedesca arresta tre uomini tra i 25 e i 31 anni che stavano preparando un attentato nel centro della città. Due di loro avevano combattuto con ISIS in Siria nel 2014, dove avevano ricevuto formazione militare. Il piano fallisce perché a febbraio uno dei quattro si consegna alla polizia francese, inizia a svelare informazioni, poi i francesi si parlano con i tedeschi, alla fine i tedeschi seguono i tre rimanenti, li identificano, raccolgono prove, alla fine li arrestano. Il pentito entra nel programma di protezione dei testimoni. E poi c'è un altro episodio di cronaca che è molto più recente, che è quello che il weekend ci ha consegnato. In Belgio la Polizia Federale ha condotto tra venerdì e sabato un'importante operazione antiterrorismo in Vallonia e una nella città di Liegi, sottoposti a fermo di polizia due fratelli sospettati di aver pianificato un attacco terroristico sul suolo belga. A seguito di quelle indagini uno dei due viene rilasciato, mentre il secondo viene giudicato colpevole e viene arrestato. Ci sono storie come queste nel rapporto di Europol, ma ci sono anche numeri come questi che abbiamo estrapolato soprattutto da fonti giornalistiche. Nessuna pretesa di scientificità, ovviamente, ma uno spunto di riflessione, quello sì, ce lo possono dare, e sono appunto gli attacchi sventati. Quanti dei 211 attentati citati nel rapporto dell'Europol sul terrorismo in Unione Europea non sono andati a segno? Nonostante non sia mai stato diffuso né dall'Europol né dalle istituzioni un elenco completo, sono numerosi gli attacchi terroristici di matrice jihadista sventati dal 2015 a oggi. Incrociando le notizie comparse sulla stampa e le dichiarazioni di ministri e capi di Stato europei, abbiamo rilevato che l'intelligence dei vari Paesi membri ha impedito il completamento di decine di attentati. In Francia, a gennaio, il ministro degli interni Bernard Cazeneuve ha rivelato che dalla primavera del 2015 al gennaio 2016 i servizi di sicurezza francesi hanno evitato 11 attacchi jihadisti. Il 18 giugno il primo ministro Manuel Valls ha aggiunto che negli ultimi mesi ne sono stati sventati almeno altri tre, di cui uno particolarmente pericoloso in occasione di europei di calcio. Nel Regno Unito, secondo quanto dichiarato a novembre 2015 dall'ex primo ministro britannico David Cameron, a partire dal gennaio 2015 le forze speciali hanno impedito il compimento di 7 attentati di natura islamica. A questi se ne aggiungono almeno altri due nel 2016. In Spagna, a luglio, le forze nazionali di polizia hanno rivelato di aver sventato nel 2015 3 attacchi jihadisti e almeno un altro ad aprile 2016. In Germania, invece, gli attentati di matrice islamista sventati quest'anno sono almeno 2, a cui se ne sommano almeno altri 2 nel 2015. Il 30 luglio, in Vallonia, Belgio, è stato arrestato un sospetto attentatore che stava organizzando un attacco omicida nel paese. A giugno erano già state arrestate altre 12 persone che avevano pianificato attentati terroristici. Circa un anno e mezzo fa, a Verviers, erano state arrestate in un blitz 2 terroristi che stavano progettando un attentato. Che cosa ci raccontano questi numeri? Ci raccontano di una grande e intensa attività investigativa, ci raccontano di bersagli e di obiettivi più o meno appetibili per i terroristi. Lo avete sentito, la Francia è uno dei paesi più colpiti. È proprio in Francia vi porto, dove abbiamo raggiunto Anne Giudicelli, che è analista, direttrice dell'agenzia privata di sicurezza Terrorisk. Già lei un anno fa aveva scritto sulle Nouvelle Observateur che la Francia era al massimo delle sue capacità difensive e di sicurezza. E allora che cosa significa? Che l'impiego di 10.000 militari in più annunciato da Manuel Valls è già il massimo che la Francia può fare? O c'è altro da mettere in campo, magari meno muscolare, magari con meno fucili in vista? Sentite che cosa dice Giudicelli. En fait, si vous voulez, ça veut dire que simplement la réponse. Vuol dire che la risposta che è stata data dall'attentato a Charlie Hebdo, al Bataclan, fino a Nizza e Rouen, è stata sempre una risposta di tipo securitario, ossia un rinforzo dei dispositivi di sicurezza esistenti, che ormai a livello di uomini e mezzi stanno lavorando al massimo delle loro possibilità. Su un piano che possiamo definire repressivo, sul piano della sicurezza, non ci sono altre cose da fare. La tematica della quale si dibatte oggi in Francia, fino a che punto ci si possa spingere in termini di diritto e di rispetto della sfera privata del cittadino, cioè sul fronte della sorveglianza della vita privata in nome della lotta al terrorismo. Au nom donc de la lutte contro il terrorismo e della prevenzione en termes sécuritaires. Questa era Anna Giudicelli, direttrice dell'agenzia privata di sicurezza appunto Terrorisk. Torniamo in Italia, dove abbiamo sentito anche Simone Pasquazzi, docente in studi sulla sicurezza alla LUISS e ricercatore presso l'Istituto Italiano di Studi Strategici Niccolò Machiavelli. A quale in qualche modo chiedo un contraltare di quello che ha detto la sua collega francese, la quale però inizia a tratteggiare quella che potrebbe essere una sorta di intelligence del vicino. È davvero questa l'ultima frontiera che si può attuare in questi anni, in queste settimane, in questi mesi in cui il cyberterrorismo è di moda, dove la rete viene utilizzata, dove le ultimissime tecnologie sono anche nelle mani di gruppi jihadisti e terroristi? Ebbene, si tornerà ad origliare, a guardare il vicino. Sentite che cosa dice Pasquazzi. Certamente, in linea generale, cercare anche una cooperazione da parte della società civile può essere utile. L'importante è in questi casi riuscire a gestire questo tipo di processi, questo tipo di provvedimenti, per cui pianificare in modo sufficientemente attento, prudente e responsabile l'eventuale partecipazione della cittadinanza in denunce, per esempio, di comportamenti sospetti. Sicuramente, pensando alla minaccia terroristica attuale, questo tipo di principio della cooperazione da parte della società civile in generale, quindi da parte non necessariamente degli organismi preposti al contrasto del terrorismo, può e va cercata all'interno delle comunità islamiche. Quindi, ecco, fare in modo che vi siano dei meccanismi che consentano a imam o a esponenti di queste comunità, o comunque anche semplicemente a fedeli islamici, di poter riportare possibili comportamenti sospetti da parte di chi, ecco, frequenta queste comunità, di chi frequenta i luoghi di culto in determinate città, in determinate località europee in questo caso. Però a questo punto la domanda nasce spontanea: non si vedono rischi su questo tipo di pratiche, ad esempio alimentare troppo un clima di sospetto? Sentite che cosa dice in proposito appunto lo stesso Pasquazzi. Il rischio più immediato che mi viene in mente potrebbe essere quello, ecco, di come dire, fomentare un clima di sospetto reciproco e un clima di paranoia. Ecco, questo sarebbe da evitare. E questo è anche il motivo per cui appunto ho detto che l'eventuale inserimento di programmi basati su questo principio della cooperazione da parte della società civile va attentamente pianificato e gestito poi attraverso procedure specifiche che evitino appunto l'insorgere di questo tipo di rischi, ecco, che getterebbero poi in un clima di allarmismo eccessivo, in un clima di sospetti reciproci e anche magari in eventuali ritorsioni. Torniamo ad Anna Giudicelli, che è l'altra esperta che stiamo consultando quest'oggi. Proprio ieri o l'altro ieri Le Monde, uno dei principali quotidiani francesi, si chiedeva a che livello si può arrivare di sorveglianza, di controllo delle telefonate, dei social network, insomma l'invasione nella sfera privata di noi cittadini in nome della sicurezza. A lei abbiamo girato proprio questa domanda: a che punto possiamo arrivare per garantire una sicurezza effettiva? Sentite. Penso che al di là di quello che è già stato fatto, della sicurezza da rafforzare, c'è tutto un approccio globale da rivedere sul fronte dei metodi di raccolta delle informazioni, chiedendosi quale tipo di informazioni è pertinente e contribuisce davvero all'individuazione dei terroristi, magari domandandosi se tutti i criteri applicati finora funzionano. Inoltre possiamo anche interrogarci sulla politica estera che la Francia conduce, chiederci se non si tratti di uno dei fattori che contribuiscono ad amplificare i rischi, soprattutto sul nostro territorio. Perché se è vero che le mosse all'estero della Francia non sono una novità, oggi applichiamo anche misure di sicurezza che da un lato aumentano la sorveglianza alle nostre frontiere e dall'altro impediscono a certi individui di partire. Ciò ha contribuito ad aumentare il rischio di azioni condotte all'interno del territorio. Vedi gli esempi recenti a Nizza e Rouen. In questi casi si trattava di storie microlocali. Uno degli attentatori di Rouen abitava accanto alla chiesa, quindi oggi questo tipo di fenomeni in questa forma diventa ancora più difficile da individuare. Per questo ritengo che si debba davvero avere una visione globale, cioè integrata tra il nostro approccio alla società e alla comunità e la nostra politica estera, chiedendoci quale politica estera è veramente pertinente con gli interessi della Francia, domandandosi se intervenire all'estero da soli, senza coalizione internazionale, è veramente necessario o se invece su particolari dossier non sia meglio sviluppare esclusivamente un'azione diplomatica. Ci sono molte cose da rivedere, siamo anche in campagna elettorale e la risposta fornita finora si fonda su un approccio che ha già mostrato i suoi limiti. Con la lucida analisi di Anna Giudicelli vi lascio per il momento, l'appuntamento è con Le Strade in diretta, poi di nuovo qui con Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è l'appuntamento settimanale di Nessun Luogo Lontano, il meglio dei temi che abbiamo accarezzato questa settimana. Siamo con Anna Giudicelli e nella puntata tutta dedicata agli attentati sventati, cioè quello che sarebbe potuto accadere se i comando, i lupi solitari dell'ISIS avessero avuto successo. La Giudicelli ha toccato due punti molto importanti nella sua analisi. Uno è la politica estera francese particolarmente aggressiva e particolarmente muscolare, e lei dice, beh, potrebbe essere rivista in modo da avere meno contraccolpi dal punto di vista interno. E dall'altro cita questa ultima nuova, antica, vecchia frontiera dell'intelligence in cui si miscela appunto tradizione e modernità, bene, l'intelligence di prossimità. Su questi temi che sono estremamente delicati, ma sono anche leve elettorali molto molto potenti, sentite che cosa dice l'analista francese. Penso che ci siano tre cose da fare. La prima è ciò che viene detta intelligence di prossimità, ossia un grosso lavoro di raccolta di informazioni a tutti i livelli della società, una specie di mappatura di informazioni raccolte direttamente sul territorio dalle persone più vicine al sospetto. Ma questa intelligence di prossimità è qualcosa che ancora non facciamo al massimo. La seconda consiste nel rivedere la nostra comprensione di questa minaccia, perché in molti casi gli attentatori o i membri delle organizzazioni terroristiche comunicano quello che vogliono fare, mandano segnali, spesso è tutto già scritto. Terzo punto, un certo numero di decisioni annunciate dopo l'attentato a Charlie Hebdo poi non sono state effettivamente adottate. È come il dibattito sulla nuova legge sulla sicurezza approvata alcuni mesi fa. Non si tratta tanto di maggiori o minori mezzi di repressione, ma piuttosto di comprendere che cos'è un processo di radicalizzazione, quali sono gli elementi che lo fanno scattare e come possiamo lavorare su questi elementi. Se non lavoriamo su questi aspetti, poi non capiremo come si svolgerà il processo di radicalizzazione. Ma torniamo a quello che è stato il punto di partenza di questa puntata, i fatti, o meglio, i fatti non avvenuti, cioè gli attentati sventati. Il fatto che, scusate il gioco di parole, ma ad esempio il presidente francese Hollande abbia non troppo recentemente svelato quanti attentati erano stati sventati, è un segnale di che cosa? Di contropropaganda? Sentite che cosa dice ancora Giudicelli. No, svelare quanti attentati sono stati sventati non è una forma di propaganda, perché mostra anche una debolezza. E in ogni caso, quando le autorità comunicano, lo fanno soprattutto a livello interno, ossia per l'opinione pubblica francese. Questo tipo di comunicazione non è in grado di destabilizzare l'organizzazione terroristica e i suoi progetti. Questi terroristi hanno un loro modo di motivarsi e incoraggiarsi ed è evidente che tutti gli attentati sventati non sono stati sufficienti a far crollare la loro volontà. Oggi i francesi sono paralizzati dal numero di attentati riusciti e a sbloccarli non serve solamente qualche successo sbandierato dai servizi di sicurezza. Qui ont réussi entre guillemets e non pas les quelques succès engrangés par les services de sécurité. Sempre per omaggiare l'adagio che dalla storia si impara, anche quella più recente rispetto a quello che è accaduto, c'è un caso di successo nella lotta al terrorismo che possiamo descrivere in un manuale di lotta al terrorismo come caso appunto virtuoso. Sentite ancora che cosa dice la direttrice dell'agenzia di sicurezza Terrorisk. La lista degli attentati sventati è una lista di attentati maturata in un quadro di controllo e di procedure che i servizi conoscono. I fallimenti riguardano scenari che non sono ancora previsti, perché se lo scenario esiste, se i servizi segreti hanno già impedito atti simili e lo scenario è contemplato, allora possono lavorare sulle informazioni ed agire. Tutti i fallimenti hanno riguardato atti che ci hanno colto di sorpresa, perché non erano tra gli scenari previsti né tra quelli considerati nella capacità del nemico. Le capacité d'action compris de l'ennemi. 349-238-6666 per commenti e domande tra i vari. Bentornato, ringrazio ovviamente gli ascoltatori. C'è una domanda che recita, dice, rifaccio la stessa stupida domanda fatta su Facebook, non è affatto stupida, perché nessun attentato in Svizzera? Dice Marco, adesso ci andiamo. La Svizzera comunque ha una tradizione in cui, come dire, non ha pestato i piedi, non si è ingaggiata, ovviamente lo sapete, è sempre stata neutrale, per cui non è certamente in prima linea in nessuna delle lotte e nessuno dei teatri medio orientali, che sono quelli che poi danno linfa vitale ai movimenti terroristici. Ci torniamo poi sulla Svizzera. Poi c'era un'altra domanda, ma sarà vero, ci chiede Rita, esistono davvero questi attentati sventati o si tratta, immagino, intendo operazioni di comunicazione? Se fosse così, gentilissima Rita, sarebbe controproducente, perché come ci spiegava l'analista, mostra i segni di debolezza del governo, che rivela un eccessivo numero di attentati svelati. L'ultimissima domanda per la Giudicelli è molto molto pratica. Bisogna aspettarsi altri attacchi nelle prossime settimane. Sentite che cosa dice. Purtroppo è molto probabile. Non c'è alcuna ragione per affermare che non ci saranno altri attentati. L'attentato del Bataclan ha aperto una breccia che non solo ha condotto ad altri attentati, ma anche una situazione che non può che incoraggiare nuove azioni. Tout ça fait ne peut que qu'encourager de nouvelles actions. E comunque bisogna rendere come dire, omaggio alla cronaca, che la stessa cronaca ci ha restituito nei mesi scorsi alcuni arresti. Nell'ottobre scorso quattro persone stavano pianificando un attentato sono state arrestate appunto in Svizzera. Certamente è un singolo episodio di cronaca. Il rispetto alle decine di attentati di cui vi rendevamo conto appunto nei minuti precedenti è certamente un numero molto meno preoccupante. 349-238-6666, c'è anche il WhatsApp, ve lo ricordo, Twitter, Nessun Luogo 24, oppure Jumpaz, la pagina Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, per i vostri commenti e le vostre domande. Allora, stiamo accarezzando anche il tema della comunicazione, evidentemente, che in termini interni è fondamentale tra i servizi. Vi ricorderete che dopo gli attacchi di Parigi c'è stato un jacuzzi fortissimo da parte della Francia verso i servizi segreti belgi, che insomma avevano al loro interno gli attentatori e che non erano riusciti comunque a individuarli o quantomeno a fermarli. Torniamo con Pasquazzi, che insegna alla LUIS ed è un esperto di terrorismo. A lui abbiamo chiesto quanto si parlano i servizi di Francia, Italia e Belgio, per esempio, e se è sufficiente quanto si parlano. Le strutture di sicurezza degli stati membri dell'Unione Europea, comprese le agenzie di intelligence dei vari paesi membri, cooperano di più di quello che si possa pensare nella percezione collettiva, almeno nel periodo attuale. Questo perché dopo che i terroristi sono riusciti a compiere una serie di efficaci attentati in diversi dei principali paesi europei, si è detto appunto l'Europa è totalmente impotente, ma si è detto anche è totalmente inattiva. Ecco, questo mi permetto di dire non è vero. Sul piano europeo ci sono una serie di strumenti sia istituzionali e sia legislativi e sia tecnologici che consentono e hanno consentito finora una certa cooperazione che in altri contesti poi ha permesso di sventare alcuni attentati o quantomeno ha agevolato determinate indagini nel settore dell'antiterrorismo. Faccio riferimento tra gli altri, per esempio, come strumento giudiziario al mandato di arresto europeo, che è stato utilizzato più volte nel corso del 2015 e 2016 e che è in vigore addirittura dal 2004. Ci sono strutture come l'Intelligence Center, per esempio, che è collocato tra Consiglio e Commissione, che comunque svolge un'attività analitica e riceve informazioni di intelligence da parte dei diversi Stati membri. Di recente è stata predisposta la genesi e anche l'operatività di un centro europeo specifico per la lotta al terrorismo in seno all'Europol, l'Agenzia di Polizia Europea, per cui delle iniziative in campo europeo sono state prese. Certo è che non sono state sempre efficaci come avrebbero potuto e dovuto essere, questo per una serie di limiti strutturali, in parte connaturati alla stessa natura dell'Unione Europea, che come sappiamo, non essendo una federazione, non può ovviamente imporre, tra virgolette, agli Stati membri una piena cooperazione nell'ambito dello scambio informativo, e anche per problemi ovviamente di budget, per limiti a volte inerenti alle risorse. Avere comunque uno scambio informativo maggiore è comunque un obiettivo che gli Stati europei dovrebbero avere come scopo costante, sì. Anche perché sappiamo proprio, se ecco, posso permettermi, che poi nei casi in cui delle pianificazioni eversive sono state sventate è stato possibile proprio grazie a esempi virtuosi di cooperazione. L'ultimissima domanda che abbiamo fatto a Pasquazzi riguarda appunto le decine di attentati sventati. Che cosa significano? Sentite che cosa ci ha detto. Secondo me un alto numero di attacchi sventati può essere indicativo di entrambi i fenomeni, cioè sia ovviamente di una minaccia particolarmente intensa, sia però contestualmente di una efficacia da parte delle strutture di intelligence e di sicurezza che riescono poi concretamente a sventare questo tipo di attacchi. Per cui, come dire, è un dato empirico che va letto in via bidimensionale, cioè rientrano tutte e due le facce della medaglia, cioè sia appunto un dato che denuncia una minaccia intensa che in qualche modo ci deve ovviamente far preoccupare, sia però al tempo stesso la capacità di saper reagire a questo tipo di progettualità. E l'Italia, mi permetto di dire, in questo senso, ecco, è un caso particolarmente emblematico, perché nel nostro paese abbiamo assistito negli ultimi anni proprio ad un numero particolarmente elevato di azioni tentate e fortunatamente finora sventate con successo dagli organi di sicurezza del nostro paese. E con le parole di Simone Pasquazzi si chiude anche quest'ultima pagina dell'appuntamento del weekend di Nessun Luogo è Lontano. L'appuntamento è lunedì prossimo alle ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un buon weekend da Giampaolo Musumeci.